Copacabana, voglia pazza di goder. Sei la festa dell'amore, sei la gioia di ballare. Carneval de Copacabana, sette giorni di pazzie, sette notti di gaie follie, viva, viva Carneval! Pazza di goder, sei la festa dell'amore, sei la gioia di ballare. Carnevale Copacabana, sette giorni di pazzie, sette notti di gaie follie, viva viva Carneval, viva viva Carneval.